Adolescenza, primi amori e sensi di colpa sono solo alcuni dei temi del tuo nuovo libro L'acqua del lago non è mai dolce. Qual è il filo conduttore che unisce questi argomenti, Giulia? Beh, è la vita della protagonista, una ragazzina che noi seguiamo dall'infanzia all'ingresso nel mondo degli adulti. Le tappe della sua vita sono quelle comuni dell'adolescenza che almeno anche io ho vissuto: primo bacio, prime amicizie, la prima volta che avviene il ciclo, la festa di 18 anni. Però lei ha uno spirito diverso, uno spirito che soffre moltissimo i colleghi, i compagni, la famiglia, e spesso in tutte queste situazioni reagisce con violenza, reagisce aggressivamente ai vari stimoli che le arrivano dall'esterno, a quelle che a lei sembrano delle ingiustizie, e quindi anche un forte senso di colpa, secondo me, sia da parte della protagonista che magari da chi legge, che sente in lei una liberazione nei suoi atti di violenza e però sa che stiamo parlando di aggressioni. Tra l'altro, questa è la prima volta in cui scrivi al presente in prima persona. Com'è stato questo diverso approccio alla scrittura? È stato complicato perché io negli altri due libri mi ero sempre cimentata con la terza persona e col passato, con la storia, partendo da alcune tracce della mia famiglia per raccontare dei periodi storici poco noti come il periodo postcoloniale italiano o anche gli anni dell'anarchismo nelle Marche. Questa volta invece volevo provare a raccontare il contemporaneo e mi sono dovuta un po' forzare, nel senso che mi veniva proprio il passato mentre scrivevo, ed è stata proprio una scelta che ho dovuto prendere e impegnarmi, quella di invece rimanere attaccata al presente, utilizzare pochissimo il passato solo per alcuni flashback e mai il futuro, mai una proiezione, in modo da creare questo effetto anche stagnante, stantio di un presente da cui non si riesce a fuggire, che un po' si collega anche all'immagine dell'acqua del lago, che è un'acqua chiusa e che è un'acqua che non sembra avere l'orizzonte ampio del mare, per esempio. Utilizzando questo appunto diverso approccio di scrittura, hai avuto un punto di contatto più vicino con i personaggi del libro? Beh, sicuramente sì, perché ho dovuto avvicinarmi moltissimo alla voce narrante di lei, a questa prima persona che un po' attraversava degli ambienti, delle ambientazioni e dei momenti della mia vita, un po' era completamente opposta a me, sia per la famiglia da cui proviene, sia per il suo carattere, il suo modo di reagire alle circostanze. Però mi sono dovuta infilare in questa voce, in questo presente, ed è la prima volta che all'interno di un romanzo io ho un personaggio parlante ai lettori e alle lettrici, quindi sicuramente ho dovuto confondermi molto con questo personaggio. E come mai invece la scelta di questa ambientazione così particolare, no? Rispetto al solito, magari? Beh, perché io sono cresciuta sul lago di Bracciano, ad Anguillara Sabazia. Sono cresciuta lì, noi ci siamo trasferiti con la mia famiglia quando avevo 4 anni, quindi dovevo iniziare le scuole elementari a breve, e poi sono rimasta fino alla fine dei miei studi universitari. Ho fatto sempre la pendolare, quindi mi sono sempre mossa sul trenino regionale per andare a scuola, quindi avevo voglia di raccontare quella provincia lì, una provincia molto vicina a una grande città come Roma, ma con una propria identità, un proprio spazio, una propria storia e un rapporto strettissimo con il lago e con appunto la dimensione lacustre, gli altri paesi che si affacciano sul lago di Bracciano, ognuno ha la propria identità e la propria storia. E quindi, visto che dovevo parlare in prima persona, ho pensato che fosse il caso di attingere a un'ambientazione che per me ha più significati, ecco, per poterla attraversare più in profondità. Ammesso che ci sia, qual è la cosiddetta morale della storia? Bah, morale probabilmente non c'è, nel senso che viene messo molto in dubbio la moralità del lettore e della lettrice rispetto all'adesione anche agli scoppi di rabbia della protagonista, quindi è sicuramente morale, punto interrogativo. Dall'altra c'è una volontà di denuncia sicuramente rispetto agli anni della crisi economica, alla difficoltà del trovare lavoro e alla formazione scolastica, secondo me, che è da una parte molto formativa e molto adeguata rispetto alle conoscenze, ma molto invece carente dal punto di vista del ponte da creare nei confronti del mondo del lavoro, della vita e del trovare il proprio luogo nel mondo, ecco, seguire le proprie aspirazioni, i propri desideri. Ecco, questo passaggio a me sembra sempre di più mancare, e il libro un po' cerca di raccontare anche questo, la difficoltà di un'identità a formarsi, anche un vuoto dal punto di vista degli ideali, il racconto di una vita piuttosto individualista, egoista e legata a una voglia di consumo che ha attraversato moltissimo quegli anni in cui anche io ero adolescente.